Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Ricordate, la settimana scorsa, esattamente mercoledì, abbiamo dedicato la puntata di Salva Danaio alla giornata di protesta delle associazioni dei consumatori organizzata davanti a Montecitorio. Manifestazione che le associazioni dei consumatori hanno chiamato tasche vuote. Ebbene, in quella puntata ci hanno dato lo spunto per trattare il tema di oggi molti ascoltatori, perché in quella puntata abbiamo chiesto agli ascoltatori, agli amici che ci seguono da casa, qual è la spesa familiare che in qualche maniera l'indispettisce di più? Tutti d'accordo, tutti molto nervosi con le bollette di luce e gas. Sentite che cosa ci avevano raccontato. Le più dure sono le bollette fisse che aumentano sempre, il gas metano e la luce. Mi trovavo tra le mani la bolletta di Enigas. È scandaloso, a parte l'illeggibilità e la non interpretabilità degli addebiti. Le tasche vuote. Noi abbiamo degli amici, non dico, ma insomma, sono tutti laureati presso a poco. Nessuno di loro capisce una bolletta, nessuno. Allora, io ho consumato 13 metri cubi, detto da loro. Siccome già ne avevo pagati 6, me li hanno defalcati, per 7 metri cubi io devo pagare una bolletta di 32,32 euro. Io e mia moglie teniamo da parte le bollette vecchie degli anni passati. È un continuo aumentare. 32,32, che è la cosa che a me interessa, diviso 7 fa 4,4 circa. Quindi un metro cubo di gas non è vero che costa un euro, ma costa 4,4 euro. Questa è la realtà. Il vero problema è che non c'è trasparenza nella pubblica amministrazione, ma anche nella privata, nel senso che queste aziende emettono bollette illeggibili. A volte facciamo fatica pure noi dell'associazione dei consumatori a leggerle. Questo vale anche per le banche, per i contratti, vale per tutto il sistema, che è un sistema aulico da un punto di vista, ma non a caso, perché è una sorta di cortina fumogena che non fa capire cosa si sta pagando e cosa e quali sono le quantità. E allora, li avete sentiti, tra le voci degli ascoltatori c'era anche quella di Pietro Giordano, il segretario nazionale, il generale appunto di Adiconsum, perché anche lui era presente appunto al nostro programma. E allora, persone molto arrabbiate per la bolletta troppo alta, oppure perché la bolletta è molto poco chiara e poco comprensibile. Ci sono però delle novità in arrivo e adesso ve le raccontiamo. Dal 1 ottobre 16 milioni di famiglie italiane vedranno cambiare l'importo della bolletta del gas, cambiare in termini positivi. Perché? Perché a partire dal mese prossimo verrà adottato un nuovo metodo per calcolare il costo della materia prima. Si farà riferimento ai prezzi spot del gas e verrà archiviato il vecchio metodo, che era legato a contratti a lungo termine, appunto legati a loro volta ai prezzi del petrolio. Noi non siamo esperti e forse questo meccanismo a noi non è comprensibile, ma la cosa importante è che l'effetto immediato, assicurano dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, sarà una diminuzione dei costi, e questa è una prima novità. Poi sta andando avanti il progetto Bolletta 2.0 per rendere appunto il documento che ci arriva a casa più comprensibile da parte di tutti noi. Allora, oggi a Salva Danaio vogliamo spiegarvi tutte queste novità, cercando di capire quali tendenze ci si potrà aspettare per i prezzi in futuro. Ma vogliamo segnalarvi e raccontarvi anche dell'iniziativa Abbassa la bolletta di altro consumo. Si tratta di un gruppo d'acquisto di energia a livello nazionale che è stato lanciato dall'associazione e che ha ormai raggiunto quasi 170.000 aderenti, anzi forse è stato anche superata questa soglia, perché poi l'opzione di partecipazione a questo gruppo di acquisto era stata prima praticamente chiusa, adesso si è riaperta. L'obiettivo è potersi sedere al tavolo di negoziazione con i player di forniture energetiche e gas sul mercato italiano e ottenere il contratto con l'offerta più vantaggiosa e trasparente. Cosa ne pensate di tutte queste novità? Raccontatecelo all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Su Facebook, su Twitter, noi parleremo di tutti questi temi con il commissario dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, Luigi Carbone, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno commissario, più tardi ci collegheremo anche con il presidente di Altro Consumo, Paolo Martinello, per cui ovviamente ci aspettiamo come sempre tanti interventi da parte vostra, perché questo è un tema molto caldo, come hanno testimoniato anche tutte le telefonate che ci avete fatto proprio nella trasmissione di settimana scorsa. Adesso che cosa facciamo? Magari un attimo un'occhiata ai mercati finanziari la possiamo dare. Oggi naturalmente è una giornata di grande attenzione intorno ai mercati, perché ci aspettavamo così di verificare quale fosse l'impatto del risultato elettorale tedesco. Ci sembra abbastanza neutrale, forse perché la vittoria, anche se non forse in questi termini, di Angela Merkel appunto era abbastanza scontata. Francoforte proprio ferma sulla parità, Parigi appena positiva più 0,11%, Londra meno 0,22%, Milano positiva più 0,17%. Su Milano si sono riaperte le scommesse sulle dossier privatizzazioni che sarebbe nell'agenda di governo. Finmeccanica guadagna 3 punti percentuali, è il titolo proprio più sotto osservazione da questo punto di vista, perché c'è un'ipotesi di scorporo da Finmeccanica di Ansaldo Energia e Ansaldo STS, e questo appunto evidentemente fa scattare molti acquisti sul titolo. Fiat Industrial più 1,91%, Mediobanca più 1,74%, Ansaldo più 1,63%, mentre in discesa stamattina troviamo Eni, che da stamattina perde oltre 2 punti, perché pesa così lo stacco dell'acconto di dividendo che era previsto per questa giornata, ma anche per quello che riguarda Eni naturalmente gli occhi sono puntati sul programma di privatizzazioni del governo. Direi che possiamo lasciare la borsa e andare subito al tema di oggi, e cominciamo la nostra chiacchierata con il commissario dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, Luigi Carbone, dalle quali ci aspettiamo naturalmente qualche dettaglio in più rispetto a quelle che abbiamo anticipato prima e che ci sembrano tutte, commissario, buone notizie. Che cosa succede per 16 milioni di famiglie italiane che ricevono periodicamente la bolletta del gas dal 1 ottobre? Allora, quello che succede è una vera e propria rivoluzione, in cui la diminuzione del costo del 7% tra aprile e dicembre di quest'anno, quindi in meno di un anno, meno 7% del costo del gas, è forse addirittura solo la punta dell'iceberg, perché la vera rivoluzione in realtà è a monte nel modo di concepire la costruzione del prezzo del gas in bolletta. Sino adesso, come lei aveva ricordato, il prezzo del gas si costruiva in modo vincolato a questi contratti di lungo periodo, di lungo termine, che venivano da paesi fuori dall'Unione Europea e che in qualche modo legavano il prezzo del gas ai prezzi del petrolio. Ora il mondo è cambiato anche molto, e però questa struttura di prezzo rimaneva uguale. Perché il mondo è cambiato? È cambiato innanzitutto perché l'offerta di gas è molto aumentata, anche rispetto a quella del petrolio. C'è questo famoso shale gas degli Stati Uniti, il gas di scisto, che sta invadendo il mercato, ovviamente facendo abbassare il prezzo. Secondo elemento per cui il mondo è cambiato è che, purtroppo si deve dire, la domanda di gas diminuisce per la crisi, quindi diminuiscono i consumi, diminuisce la domanda di gas. Quindi in qualche modo il gas stava vivendo, per questi due motivi diversi, cui si unisce un'azione dei regolatori europei, dell'autorità italiana e delle altre autorità europee. Questi fattori provocavano una discesa del prezzo del gas all'ingrosso, che invece, rimanendo legato al prezzo del petrolio, rimaneva legato invece al prezzo precedente. A questo punto l'autorità italiana ha avviato un lungo processo di riforma, abbiamo cominciato nel 2011, che ha portato finalmente quest'anno a staccare il prezzo del gas dal prezzo dei contratti a lungo termine, e quindi al prezzo del petrolio, e ha potuto creare una vera e propria borsa del gas italiana che ha allineato il prezzo del gas a quello europeo. L'ultimo passaggio di questa riforma è stato trasferire al consumatore, al dettaglio, al cittadino, i benefici di questa rivoluzione, diciamo, nel sistema. Che si andranno ad aggiungere anche al calo delle tariffe del gas che l'autorità ha stabilito già, mi pare, nei 2 trimestri precedenti, commissario, se non ricordo male, quindi quantificando il tutto si arriverebbe teoricamente adesso per una famiglia tipo ad un risparmio di circa 90 euro per la prossima stagione invernale. E, insomma, sono circa 90 euro per la famiglia tipo del prossimo inverno, ripeto, 90 euro che prima risparmiavano i grossisti perché era sceso il gas nel mondo, ma non arrivava questo risparmio ai cittadini. Grazie alla riforma adesso questo risparmio si trasferisce sui cittadini in modo visibile, anche abbastanza visibile. Certo, insomma, in un mondo in cui tutto aumenta, no, mi scusi, perché in un mondo in cui a questo punto il petrolio continua anche ad aumentare, il gas scende e finalmente ne si vedono. No, più che altro magari così ci adeguiamo anche agli standard europei, perché da molto tempo ci additano un po' come quel paese dove le bollette sono le più alte d'Europa. Questo non capita solamente per la bolletta della luce e del gas, ma anche per esempio per i costi bancari, per i tassi su mutui e tanto altro ancora, quindi quantomeno adesso ci adegueremo ai paesi più virtuosi, perché non crediate, guardate che in Europa, e queste sono delle statistiche che anche le associazioni dei consumatori diffondono, in Europa ci sono dei paesi dove per la verità il costo dell'energia e del gas è molto più alto in media per le famiglie rispetto all'Italia, per cui questa è sicuramente una buona notizia. Quindi arriverà presto questa riforma del metodo di aggiornamento del gas delle autorità. State comunicandolo anche alle famiglie, commissario Carbone? Arriva con le prossime bollette anche questa informativa su questa notizia, così che appunto i consumatori siano informati fino in fondo? Noi procediamo con un'informativa anche in parallelo con l'aggiornamento trimestrale. Alla fine di ogni trimestre, quindi fine marzo, fine giugno, fine settembre, adesso, proprio tra pochi giorni, faremo il prossimo aggiornamento trimestrale che in qualche modo completerà questa discesa del prezzo per la riforma, e quindi anche in quell'occasione, cioè nei prossimissimi giorni, daremo un'ulteriore informativa. Quindi in qualche modo stiamo dando un'anteprima di un percorso che in qualche modo si sta compiendo. Ecco, commissario, comincio già così a girare le osservazioni che ci fanno gli ascoltatori. Questa novità si tradurrà in risparmio in bolletta solo per i nuclei familiari, solo per il, come dire, pubblico retail? Per le imprese invece non ci sarà nessun risparmio, perché insomma anche le imprese fanno grande consumo di energia e gas, evidentemente. Sì, e questo è bene chiarirlo. Questo nuovo metodo di determinazione del prezzo del gas vale per il cosiddetto prezzo di tutela, quindi per circa 16 milioni di consumatori, che vuol dire 16 milioni di famiglie, di punti di prelievo, serviti in tutela. Non coinvolge i piccoli clienti non domestici che sono usciti dal perimetro della tutela a seguito di un decreto legge di quest'anno, il numero 69 del 2013, che ha spostato questi clienti, alla pari dei clienti poi industriali, imprenditoriali più grandi, fuori dal perimetro della tutela. Che cos'è il prezzo di tutela? Il prezzo di tutela è un prezzo che è determinato dall'autorità per l'energia, quindi da noi, sulla base di questi parametri che ho detto mutare, adesso più legati al prezzo spot del gas. Fuori dal prezzo della tutela c'è un prezzo libero che è determinato dal mercato. In realtà il mercato prende spunto dal prezzo che noi fissiamo per la tutela, quindi se scende il prezzo della tutela sarebbe, come dire, sarebbe illogico che il mercato mantenesse dei prezzi più alti, e quindi noi speriamo che ci siano anche degli effetti di trascinamento. Però il nostro intervento vale al momento solo per i consumatori in tutela, che sono però 16 milioni. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Damiano da Roma ci scrive: devo andare ad una riunione, è possibile risentire questa trasmissione? Può farlo nel corso della notte, perché mandiamo in replica il nostro programma come tanti altri, ma si può collegare anche sul nostro sito www.radio24.it, dove potete scaricare tutte le trasmissioni che produciamo quotidianamente, appunto, quindi potete estrarre il podcast. Andiamo a qualche ascoltatore, commissario Carbone, quindi sentiamo un po' che cosa ne pensano, non tanto di tutte queste novità, perché immagino che vorranno vedere gli effetti concreti e il risparmio in bolletta. Vediamo adesso invece di che cosa si lamentano, appunto, relativamente alle bollette che ci arrivano periodicamente in casa. Pino da Arezzo, buongiorno. Ah, buongiorno signora. Senta, io ho notato che la bolletta di gas, no? L'importo totale è formato ovviamente dal costo del prodotto, il costo del trasporto, sì, perché adesso con la diciamo con la liberalizzazione può essere i trasporti, i tubi, certo, diciamo, la distribuzione che magari un pochino lì ci potrebbe far risparmiare. Esatto, la distribuzione, quindi è la materia prima, e poi ci sono diverse imposte regionali, tutte le imposte varie, insomma. Su queste, io capisco di pagare l'IVA sulla materia prima e sulla distribuzione, sì, ma sulle imposte pagarci l'IVA mi sembra veramente una ridicolo, insomma. Certo, perché praticamente l'IVA si applica sull'importo praticamente finale, che comprende anche le imposte. Pino, la ringrazio. Abbiamo tra l'altro poi anche da raccontarvi come si sta strutturando questa iniziativa dell'Autorità del Gas e dell'Energia, Bolletta 2.0, perché l'obiettivo è di renderle molto chiare per noi tutti, e vedremo anche come ci verranno spiegate queste voci di spesa. Alberto da Perugia, sentiamo anche lei, così poi il commissario Carboni lo facciamo rispondere con calma nella seconda parte del programma. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io da perfetto ignorante mi sono cominciato ad interessare sulle bollette da poco tempo, perché in questo periodo stanno chiamando proprio tutti i gestori per proporre novità, e mi sono accorto che c'è una voce che non tenevo proprio in considerazione, che è i servizi di rete, che è molto molto differente da un gestore a un altro. Ah. E questo mi ha fatto proprio balzare dalla sedia. E le ha fatto anche cambiare operatore, Alberto, perché ne ha trovato qualcun altro più vantaggioso? Sono molto intenzionato, perché soprattutto di gas spendo veramente cifre d'inverno assurde. E l'ho già fatto, perché ho già lasciato Enel Gas dall'inizio, che ovviamente è obbligatorio anche qui, sarebbe da aprire una parentesi, come mai il regime di libera concorrenza. Bisogna appoggiarsi sempre ai teorici monopolisti, certo, Alberto, anche questa è un'altra bella, come dire, tematica universale. Detto questo, quindi il tema è i servizi di rete. Questo costo sulla bolletta varia notevolmente da un operatore ad un altro. Grazie. Sì. Alberto, grazie. Commissario Carboni, sentito, adesso le do modo di riflettere qualche istante, così poi rispondiamo in maniera completa ai nostri due amici dopo la prima pausa. Poi avremo anche con noi Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo. Insomma, tanta carne al fuoco, cuciniamola, visto che appunto il gas adesso costerà un po' meno. Sto scherzando, ovviamente. Ci sentiamo tra qualche istante. Ho saldato le multe sospese, luce, gas, bollette comprese, il narcotico. E insomma, così un po' ci sbizzarriamo ogni tanto a cercare le canzoni adatte per il nostro programma, e scopriamo che anche gli artisti e i musicisti si occupano dei problemi di tutti i giorni, come in questo caso Samuele Bersani, appunto, che ovviamente paga le bollette come tutti noi, e qualche volta prendo questo documento quando arriva a casa, lo appunto guardiamo con un po' di timore e sospetto prima di andare alla quantificazione finale. Ma se dovessimo appunto soffermarci su tutte le voci qua, veramente sarebbe da come dire, rinunciare proprio, anzi molti lo fanno per la verità. C'è invece, come abbiamo sentito, anche qualche ascoltatore che si è messo lì d'impegno ad analizzare voce per voce quello che paga nella bolletta finale, e qualcuno ha scoperto che qualche voce è del tutto poco comprensibile, ma questo insomma lo sapevamo, va. Già, dovrebbe cambiare qualcosa con l'avvento di questa iniziativa dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Bolletta 2.0. Commissario Carbone, adesso la faccio intervenire sui due ascoltatori, però volevo salutare anche Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, buongiorno. Eccomi, buongiorno a voi. Buongiorno presidente. Allora, voi siete partiti con questa iniziativa che ha veramente sbaragliato un po' tutti, perché mai avremmo potuto immaginare che mettendo insieme un po' di famiglie e di individui si potesse ad arrivare ad organizzare un gruppo forte al punto da poter trattare anche con le aziende del gas e dell'energia. Avete lanciato l'iniziativa Abbassa la bolletta, che peraltro si era solo teoricamente chiusa qualche giorno fa. Mi pare che adesso abbiate riaperto la possibilità di aderire al gruppo d'acquisto, giusto? È stata riaperta per un mese ancora, anche se l'asta, che era lo scopo di questo gruppo di acquisto, cioè andare da tutti i fornitori e invitarli a fare una proposta in competizione tra di loro, l'asta c'è stata giovedì scorso, si è conclusa bene, e quindi coloro che aderiranno adesso, diciamo che avranno la possibilità di godere delle condizioni tariffarie offerte da chi ha vinto l'asta, ormai non sarà più, diciamo, la sua partecipazione non peserà più nel gruppo d'acquisto, che peraltro aveva raggiunto 170.000 adesioni, quindi tante, e certamente hanno spinto le imprese a farsi un po' di concorrenza alla luce del sole. È stato molto interessante, una prima esperienza, abbiamo avuto 3 ore e mezzo di asta con 32 rilanci e crediamo che il risultato sia positivo. Adesso la conferma la avremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quando andremo a fare i conti per ciascuno dei 170.000 aderenti e vedremo quanto risparmieranno rispetto a quello che pagano. Ecco, ma in sostanza quanti saranno gli operatori che potranno fornire i loro servizi? Vince uno? Ah, ecco. I vincitori sono 4, perché c'erano 4 lotti, per così dire. Uno era solo per l'utenza luce, uno solo per l'utenza gas, uno per il dual fuel, gas più luce, e la quarta era per la bioraria, la tariffa bioraria, certo, sulla luce. Quindi per ciascuna di queste abbiamo avuto un vincitore, anzi, per la verità un'azienda ha vinto 2 lotti, altre 2 gli altri 2. Ve l'aspettavate questo consenso, questo successo, Presidente, oppure era abbastanza scontato, considerato lo scontento che c'è tra le famiglie italiane per questi oneri fissi che devono pagare? No, puntavamo a un risultato di queste dimensioni, quindi devo dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi. Abbiamo l'esperienza di altri paesi europei che hanno fatto queste iniziative prima di noi, dove ci sono state comunque anche in situazioni magari meno critiche di quelle italiane dal punto di vista dell'economia familiare, hanno avuto comunque adesioni molto forti, quindi siamo soddisfatti per il risultato, e anzi credo che sia un primo risultato, perché questa esperienza, insomma, il peso dei consumatori nel mercato deve crescere, e questo è un modo per farlo crescere. Tra l'altro, le condizioni economiche che avete spuntato con l'offerta proposta dagli operatori che hanno partecipato a questa asta non potranno subire variazioni per almeno 2 anni. Adesso andiamo anche su queste, come dire, tecnicalità, passiamo questo termine che è orrendo, adesso qualche ascoltatore me lo contesta di sicuro. Io però vorrei concludere con il commissario Carbone, che fra 5 minuti deve lasciarci, poi terminerò la puntata con Paolo Martinello. Però commissario, allora, con la bolletta più trasparente, quella che avete pensato di lanciare così in questo vostro progetto bolletta 2.0, saranno più chiari gli oneri dei servizi di rete, come quelli che ci ha segnalato Alberto da Perugia, che è una voce che differenzia molto anche il costo, appunto, le prestazioni tra un operatore ed un altro? E poi l'IVA su tutta la bolletta, omnicomprensiva anche di imposte, le sembra una procedura corretta? Sì, grazie. Cominciamo da quest'ultimo punto, che era poi quello sollevato dal primo ascoltatore. Pino di Arezzo, sì. Ha ragione, il consolatore Arezzo ha ragione. Questo però dipende dalla legge, è la legge che fissa l'imposizione fiscale. Noi abbiamo anche più volte segnalato alcune di queste particolarità che c'è la bolletta, e si pagano le tasse anche sugli oneri di rete, anche sulle accise. E questo però, ripeto, è la legislazione, a cui la legislazione ovviamente in questo momento collega anche entrate dello Stato. Lei sa benissimo che per diminuire un'entrata occorre o un'altra entrata o una riduzione corrispondente della spesa, quindi in questo momento di patto di stabilità è purtroppo sempre complicato. Però questo mi ricorda molto, adesso lei magari non lo conosce, mi ricorda molto tutta quella vicenda dell'IVA sull'imposta sui rifiuti, eccetera, perché si applica l'IVA su un'imposta che è veramente a del folle. Comunque, insomma, voi ne siete consapevoli, coscienti, ma non si può fare nulla. È segnalato, ma dipende dalla legge. Noi non possiamo ovviamente che registrare quello che Va bene, auspichiamo un bel gruppo di pressione che vada a sollecitare Montecitorio a cambiare questa cosa. Questo invece, l'altro punto, che in qualche modo è anche collegato a questo, quello dei servizi di rete, fa capire quanto sia importante una bolletta sempre più chiara, sempre più leggibile, perché in effetti i servizi di rete sono una componente diversa dalle imposte, ma sono sempre qualcosa che non è legata alla materia prima, come giustamente diceva il consumatore. È una voce sulla quale però gli operatori possono permettersi di fare degli sconti, come mai? Allora, attenzione, non è materia contendibile. Gli oneri di rete, i servizi di rete sono dei servizi fissi, li avete nominati, il trasporto e altri tipi di servizi. Oggi entrano qui dentro anche i cosiddetti oneri di sistema, non sono solo servizi di rete, cioè per esempio tutti gli incentivi alle fonti rinnovabili li paga il consumatore, sono in qualche modo da noi fissati e inseriti nella bolletta. Tutte queste cifre non fanno parte del prodotto elettricità o gas, che è quello invece contendibile, che è quello su cui il venditore può abbassare il prezzo. Quindi queste voci sono delle voci simili a quella fiscale, se vogliamo, che non sono, come dire, contendibili dal mercato. Che cosa succede però? Che l'operatore che lavora nel mercato libero, quindi fuori dai prezzi di tutela fissati dall'autorità, può fare un prezzo tutto compreso, a suo rischio, e dire guarda, certo, io ti faccio pagare X, comprese le tasse, compresi gli... Se li assorbe un po' lui, insomma, questi costi. Compresi gli oneri di sistema. Ovviamente lui fisserà un X che si è calcolato sia conveniente per lui, non lo faccio andare in perdita, anche perché sennò non farebbe questo mestiere. Ma certamente nel mercato libero questo tipo di offerte omnicomprensive ci può essere. Ed è per questo, e chiudo con due battute, una sulle iniziative di alto consumo, ed è per questo che l'iniziativa di alto consumo a noi dell'Autorità per l'Energia è piaciuta molto, e l'abbiamo detto, il Presidente Martinello lo sa, l'abbiamo detta in più occasioni pubblicamente, io da ultimo nelle audizioni della settimana scorsa l'ho ribadito, perché queste iniziative sono le iniziative in cui i consumatori sono più consapevoli, sono più attivi sul mercato, non si limitano solo a subire i prezzi fatti dai grandi operatori, ma in qualche modo dialogano, interagiscono raggruppandosi, diventando grandi anche loro, e quindi consentono di abbassare dei prezzi, anche a costo appunto di fare una cosa che include le tasse e i servizi di rete. Quindi prima cosa, breve alto consumo, bisogna andare avanti su questa strada. Molto seconda bene, cosa, sì, bolletta 2.0. Esattamente, perché sarei appunto arrivata lì, se non l'abbiamo lanciata e non la spieghiamo, giustamente. Non perdevo il filo, lo tenevo come ciliegia finale. Da parte nostra quello che possiamo fare, oltre, ripeto, a lodare le iniziative dei consumatori, è quello di rendere, di facilitare il compito, rendendo la bolletta sempre più chiara. Noi viviamo oggi di una disciplina della bolletta che pensava che quante più informazioni si davano al consumatore, più lo si proteggeva. Quindi in qualche modo il consumatore veniva protetto, diciamo, riempendolo di informazioni. Ci stiamo rendendo conto che così facendo la bolletta è piena giustamente di dati, ma è meno leggibile, anzi diciamo è proprio poco leggibile. Bravo. L'altro parallelo che mi viene di fare è quello dell'estratto conto. In realtà noi vorremmo sapere tutto quello che paghiamo, poi in realtà non vogliamo ricevere in casa 12 fogli e vorremmo un estratto conto con una pagina appunto dove sia tutto più semplificato. Chiuso l'altro parallelismo, commissario Carbone, lascio concludere. Quella tipica dialettica tra la completezza dell'informazione e la sua fruibilità, la sua leggibilità. Allora noi pensiamo che ci siano però dei modi per tutelare tutti e due, ad esempio potremmo avere una bolletta molto semplice e poi chi vuole magari online va e si trova le 12 pagine senza riceverle tutte a casa. Tutto questo però noi non lo vogliamo decidere autoritativamente noi come autorità, alla fine lo decideremo noi perché siamo noi il regolatore, ma voi abbiamo aperto una procedura amplissima di ascolto, forse è la prima volta che si fa una cosa del genere. Sì, posso dire che il questionario è arrivato anche a me, mi avete chiesto appunto come dire, mi chiamate un po' opinion leader, mi viene un po' da ridere, però in realtà un supporto che è stato chiesto appunto a 360 gradi a molte figure professionali. Per riconoscere questa cosa, noi avremo il 9, 10 e 11 ottobre delle audizioni a tutti gli operatori e a tutte le associazioni di consumatori che vorranno partecipare, sono certo che anche il Presidente Martinello si farà attivo per partecipare a queste audizioni, che sono tra l'altro delle audizioni non così in libertà, ma secondo delle tracce, delle linee guida che sono già presenti sul sito dell'autorità. Dopo questa prima fase di ascolto appunto di associazioni, di operatori e di opinion makers, sono contento appunto di aver ricordato anche questa cosa. Ah sì, makers, sono leader, mi ero anche promossa sul campo. No, va bene, i makers sono leader, se lo sanno fare. Dopo questa primissima fase ci faremo un po' un'idea, perché ripeto, non vogliamo arrivare con un preconcetto, vogliamo veramente solo ascoltare. Dopo questa prima fase di ascolto faremo una prima imbastitura e quella sarà aperta alla partecipazione di tutti i cittadini. Cioè sarà proprio quello che chiamiamo notice and comment, chiunque, tutti i cittadini, tutti i consumatori potranno dire la loro su come vedono la bolletta, e poi speriamo verso fine anno, primi dell'anno prossimo, di fare la richiesta. Un'ultimissima cosa, visto che approfitto della sua presenza, l'autorità ha un numero verde. Ero già pronta qua. Del consumatore, ecco, perché è bene comunque ricordare che per disfunzioni e problemi che non sono quelli, come dire, di regime generale, ma sono sulla singola bolletta di singole disfunzioni che purtroppo ci sono, noi abbiamo un numero verde del tutto gratuito che è 800 166 654. Molto bene. 0166 654. Sono sicura che le scriverà per esempio Ada da Bologna, che adesso ancora non riesco a sentire, ma che voleva segnalarci il fatto che ha ricevuto una bolletta stratosferica per un periodo in cui la casa era chiusa, e qua stiamo ritornando al solito problema della fatturazione anticipata, che è ancora questa pessima abitudine adottata da molte aziende che poi non vogliono mai fare un conguaglio appunto adeguato. Detto questo, quindi commissario Carbone, ci sono tante questioni questioni. Vi aspettiamo per una prossima puntata per naturalmente farci il punto della situazione su questa bolletta 2.0 quando avrete terminato queste consultazioni. Buona giornata. Molto, molte grazie. Grazie. Noi lavoriamo per i consumatori e anche voi, quindi è grazie. Sempre un piacere lavorare. Grazie con voi. Molte, grazie molte. Le tasche vuote. Tasche vuote perché le bollette sono alte. Ottimizziamo questi ultimi 7 minuti di tempo che ci rimangono con Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo. Presidente, Francesca su Facebook ci scrive: come si può aderire al contratto collettivo per l'energia di cui avete appena parlato? Questo gruppo d'acquisto abbassa la bolletta. Il sito è proprio abbassalabolletta.it, ci si può arrivare anche tramite il sito di Altro Consumo, ma esiste appunto un sito ad hoc. Ecco, che cosa deve fare un consumatore per aderire a questo progetto, dare i suoi dati? Ecco. È proprio sufficiente lasciare i dati anagrafici praticamente e di indirizzo di posta elettronica. Chiediamo però a chi aderisce di compilare anche un formulario nel quale sono riportati i dati essenziali del consumo, sia della luce che del gas. Preciso che si può aderire per entrambe le forniture o anche solo per una delle due, e lasciando i dati essenziali del consumo riceverà quello che dicevo prima, cioè una valutazione del risparmio possibile con l'azienda che ha col fornitore. Certo, che ha vinto adesso l'asta. Direi anche non ci dobbiamo aspettare dei miracoli, però tendenzialmente no. Che cosa auspicate in termini Ma di noi, risparmio? Guardi, noi prevedevamo inizialmente come possibili risparmi una percentuale variabile dal 5 al 10%, che vuol dire in valore assoluto un risparmio dai 50 ai 150 euro all'anno a seconda del se nucleo parliamo familiare, di una sola utenza o certo. Di entrambe le utenze. Questo è l'ordine di grandezza. Devo dire che da come è andata l'asta, ma ripeto, su questo i dati li avremo nei prossimi giorni, perché c'è un mega sistema che sta elaborando i dati per tutti gli aderenti, avremo dei dati più precisi anche su quanto effettivamente è il risultato che abbiamo ottenuto. Poi teoricamente la prima bolletta che si potrà pagare con il nuovo operatore, quello che ha appunto fissato questo contratto con voi, quando sarà? Sarà mi pare dal 1° novembre, qui non vorrei sbagliarmi, però diciamo che poi ci sarà tempi rapidissimi, comunicazione personalizzata e la possibilità di fare lo switch sarà molto semplice. Attraverso la comunicazione che si riceverà sarà già possibile mettersi direttamente in contatto con l'azienda che ha vinto l'asta e fare il passaggio. Siamo molto curiosi di vedere come funzionerà poi questo passaggio, perché per i comuni mortali, quelli che vogliono passare dal regime di maggior tutela al mercato libero, hanno sempre dovuto fare dei salti mortali. Italia, appunto, vero, per te. Ecco, quindi vediamo se con voi funzionerà più velocemente. Ma lo scopo del gruppo d'acquisto era anche proprio quello di facilitare il passaggio e di farlo senza temere tutte quelle rischi che effettivamente si sono rivelati nel mercato libero, dove ci sono state un marketing molto aggressivo, a volte dei cambi fatti un po' alla cieca e che hanno prodotto dei risultati non convenienti per il consumatore. Allora le faccio sentire un paio di ascoltatori. Martinello, anche perché a parte il risparmio che vogliamo avere in bolletta, naturalmente le questioni aperte con i distributori di gas ed energia sono tanti. Sentiamo Ada da Bologna, che l'avevo anticipato. Ada, molto velocemente, grazie. Sì, ci dica. Al di là dei servizi di vendite di rete che avete già detto che sono piuttosto cari, le volevo dire anche questo: il totale dell'imposta, che è una CISE, anche se è piccola, però quindi si paga questa imposta e poi su questa imposta viene fatto anche l'IVA, quindi voglio dire due volte, e questo va l'abbiamo bene. Detto, e questo abbiamo già capito che è una battaglia che dobbiamo portare avanti, Ada, grazie. La cosa che invece volevo dirle è questo, che io sempre in l'estate, dal giugno fino ad agosto, io sono sempre fuori, la casa è chiusa, sono da sola, stacco la luce o meno. Dunque, quest'anno 2,77 di cui F1, F2, F3, cioè arancione, eccetera, ci sono le cose. Io stacco la luce e non ci sono. Non riesco, capisco che potrei benissimo fare la lettura, ma mi riesce difficile. No, però è anche vero che se lei fa dei consumi medi più bassi, non si capisce perché le debbano caricare tutta questa fatturazione anticipata, Ada, quindi a parte la lettura o meno, penso che un'azienda abbia anche le capacità di poter attribuire dei consumi che sono quelli standard che una persona fa durante l'anno. Ada, la ringrazio, purtroppo devo salutarla. Paolo Martinello, allora, questa faccenda dell'IVA pagata sull'imposta in bolletta è inaccettabile, la vogliamo portare avanti? Ma questa cosa, ma volentieri. chiarissimo, però devo dire, noi questa cosa l'abbiamo, noi e altre associazioni l'abbiamo sollevata credo 20 anni fa, cioè non 20 anni fa, e devo dire che abbiamo fatto proposte di legge, abbiamo raccolto firme, abbiamo parlato con ministri, viceministri, è un problema che è rimasto irrisolto per mere questioni di cassa, cioè per ristabilire una giustizia sostanziale in queste bollette bisogna pagare dei soldi, cioè lo Stato ci deve evidentemente rimettere, è come dire che l'IVA su quelle bollette è già aumentata non al 22 ma forse al 25 o al 30%. Ecco, infatti. Invece, ci sono in ballo dei fondi e quando è il momento poi di andarli a reperire, e capirai, oggi devo dire, è proprio il periodo di, esatto, prima, esatto. Anzi, speriamo che non aumentino ulteriormente queste voci, speriamo che intanto venga scongiurato questo aumento dell'IVA dal 1 ottobre. Senta, voi vigilerete, Presidente, sul fatto che le aziende che avete scelto per questa operazione a bassa la bolletta, che avete scelto perché hanno vinto in asta, appunto, si comporteranno regolarmente in maniera trasparente in termini di fatturazioni, come verranno fatte, anche il tema dei conguagli che abbiamo indicato prima, che controllo farete sulle relazioni tra i partecipanti al gruppo d'acquisto e le società che sono state scelte, appunto? Le aziende che hanno aderito all'asta addirittura avevano accettato, c'è stato tutto un capitolato, quindi un accordo con Altro Consumo che prevedeva addirittura un controllo preventivo, per esempio abbiamo ammesso all'asta solo le aziende che dimostravano a priori di avere un contratto di utenza corretto, senza clausole vessatorie, quindi c'era già una selezione a priori, e poi c'è, naturalmente, ci sarà ovviamente una selezione e un controllo a posteriori, perché tutte le persone che hanno aderito saranno in diretto contatto con noi e quindi ogni problema, ogni reclamo verrà in qualche modo monitorato attentamente. Quindi avete stabilito i patti chiari fin dall'inizio. Sono rimasta molto stupita di una cattiveria finale, poi ci salutiamo, che abbia partecipato alla vostra asta con l'intenzione appunto di partecipare alla vostra operazione anche Acea Roma, che sappiamo che ha combinato dei bei disastri nella capitale. Comunque, chiusa parentesi, la cattiveria l'ho detta, la lascio qua. Alessandro, Claudia e Gianni erano in diretta, volevano intervenire, guardate, non ci riusciamo, scriveteci, gireremo le vostre situazioni all'autorità, oppure potete chiamarla direttamente all'800 166 654. Grazie a Paolo Martinello, buona giornata, a domani con Salva Danaio. Salva Danaio.